Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, oggi parliamo di stress. Ne parliamo sempre male, ma anche lo stress ha i suoi vantaggi. Lo stress è prima di tutto una reazione buona, in cui l'organismo mette a disposizione una maggiore quantità di energia per lottare contro le avversità. Oltre a potenziare la forza fisica, inoltre, regala lucidità e prontezza mentale e moltiplica le possibilità di trovare in fretta le soluzioni ai problemi urgenti. Ma per essere buono, deve essere breve. Deve avere cioè una rapida attivazione e un'altrettanto rapida disattivazione. In pratica, va preso a piccole dosi. Dal sito di Humanitas, www.humanitas.it, ma voi lo stress lo prendete a piccole dosi o rischiate di fare indigestione? Sì, perché se è troppo, lo sappiamo tutti per esperienza personale, ci fa male. Perché? Perché ci rende diversi, qualcosa succede dentro di noi. Ce lo facciamo raccontare dal dottor Oz, autore di una fortunata serie TV americana mandata in onda in Italia dalla 7. Guardate questa immagine del corpo umano, ecco come si presentano i nostri organi interni. Partiamo dall'alto, e cioè dalla testa. Al suo interno c'è una piccola ghiandola chiamata ipotalamo, accanto alla quale c'è la ghiandola pituitaria. È qui che il corpo e la mente comunicano tra di loro. Quando la ghiandola è stimolata dallo stress, produce sostanze chimiche, eccitando un'importante ghiandola che si trova proprio sotto la pituitaria, la tiroide, e altre due ghiandole in corrispondenza dei reni. Eccole, proprio qui, in cima ai reni. Le ghiandole surrenali. Queste ghiandole secernono epinefrina per darci energia e producono anche cortisolo. Sono molte le sostanze prodotte dalle ghiandole surrenali. Esse sortiscono due effetti. Stimolano il cuore, ma inducono anche l'accumulo di grasso in questa zona del corpo, che è molto sensibile al cortisolo. Quando siamo molto stressati, questa parte del corpo si impregna di cortisolo e accumula grasso. Guardandomi attorno, in America, vedo molte persone panciute e capisco che sono stressate. Ci occuperemo dei panciuti, ma per adesso occupiamoci del cortisolo. Se supera i livelli di guardia fa danni, anche se di per sé non sarebbe assolutamente cattivo. Ma a questo ormone il biochimico nutrizionista Talbot ha dedicato un libro, Cortisol Connection. Noi lo abbiamo sfogliato per voi in redazione e vi proponiamo alcuni degli antidoti suggeriti. Ma intanto voi proponeteci i vostri rimedi antistress. 800 24 00 24, potete come sempre scrivercelo al 349 238 6666 o scriverlo come lo hanno fatto già alcuni di voi sul nostro profilo Facebook. Ascoltare la musica, dormire 8 ore per notte, sorseggiare il tè, in particolare quello nero, uscire con amici allegri, programmare un massaggio, fare qualcosa di spirituale, dire om, masticare un chewing gum. Qualcuno di voi ha provato uno o più di questi rimedi? Che cosa ha funzionato? Quale? 800 24 00 24. Ma soprattutto, perché questo dottor Talbot suggerisce questi rimedi? Lo chiediamo a Salvatore Patriarca, responsabile editoriale di Salute 24. Salvatore, ciao! Ciao Nicoletta, buongiorno, buongiorno a tutti. Voglio salutare anche Alberto Pellai, che è qui in studio davanti a me, che ci aiuterà ad affrontare il tema stress come un buon psicoterapeuta può aiutarci ad affrontarlo. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora Salvatore, le ricerche hanno indirizzato Talbot a suggerire di ascoltare musica, di frequentare persone allegre, di dedicarci ad un massaggio, quindi un po' alla cura di sé. Ascoltare la musica, cosa dicono le ricerche? Perché è un buon suggerimento? Ma guarda, addirittura fa bene a due livelli. Da un lato perché abbassa fino al 66% il livello di cortisolo in eccesso. E addirittura riesce ad abbassare i livelli di conflittualità casalinga. Per esempio c'è un consiglio che viene dato dal Medical Center di Osaka, secondo il quale quando c'è una cena familiare un po' a rischio, mettere della musica in sottofondo in modo tale che tutti i pericoli di litigi possono scomparire. Questo mi piace, sicuramente sarà un suggerimento che sfrutterà anche Alberto Pellai nei suoi circoli del papà. Alberto, quindi dovrai fare anche un po' di musicoterapia. Che dici? Sì, è proprio, credo che la musica è una di quelle possibilità che effettivamente facilita la messa in connessione tra le emozioni, cioè ciò che sentiamo, e i pensieri, ovvero ciò che pensiamo, e aiuta probabilmente il pensiero a gestire meglio l'emozione che potrebbe essere straripante e tenerci in balia quando siamo sotto stress. Salvatore, dormire 8 ore per notte, sono proprio 8, insomma dormire bene, poi sappiamo che ci sono brevi e lunghi dormitori, l'importante è concedere al nostro corpo il meritato riposo, perché quando siamo particolarmente stressati la prima cosa che salta è proprio il sonno. Sì, oltre alle 8 ore, forse ancora più importante è questa rivalutazione del pisolino pomeridiano. Secondo una ricerca della Penn State University, ben il 50% di cortisolo in eccesso si abbassa con un breve riposo di 20 minuti, mezz'ora nel corso del pomeriggio. Quindi tutti questi rimedi per tenere buono questo cortisolo, che se si alza ci manda in tilt. Alberto, questo ormone ne parliamo sempre male, ma noi oggi vogliamo rivalutare sia lo stress, quello buono, e il cortisolo dobbiamo tenerlo basso. Sì, è proprio, immaginate di essere in un locale dove comincia a suonare una sirena, un allarme, e voi vi aspettate che quella sirena da lì a poco venga spenta perché è stato riconosciuto il motivo che l'ha attivata. Lo stress invece è una sirena che continua a suonare ininterrottamente, perché la penichella fa bene, intanto perché mentre la facciamo chiude proprio la possibilità alla sirena di essere ascoltata. Il secondo aspetto è che se noi siamo fortemente sotto stress, cioè c'è una sirena che suona ma sappiamo che abbiamo il rito della penichella, ci prepariamo già un'ora prima o 2 ore prima a sapere che la sirena sarà disattivata, e quindi vuol dire che abbiamo proprio incastrato nel nostro stile di vita, nel nostro modo di essere, una variabile che tiene sotto controllo lo stress, e che tra l'altro usa il riposo, che è il miglior antidoto a ciò che invece rischia di farci proprio soccombere sotto l'ondata della fatica. Salvatore, dopo la pennichella un bel tè, soprattutto nero. Esatto, questa logicamente è una ricerca che proviene dal Regno Unito, dall'University College di Londra, e ha fatto una particolare classifica secondo il quale il tè nero abbassa del 47% il livello di cortisolo rispetto ai 20-22 che riescono a fare gli altri tè o le tisane. Quindi soprattutto per la sera, quando è stata una giornata particolarmente complicata, una bella tazza di tè nero. E poi tra i vari rimedi, tra i vari suggerimenti, Talbot dice dire om. Però prima di darti la parola, Salvatore, voglio leggere un contributo, il messaggio che mi ha lasciato Bruna su Facebook, e mi scrive: quando mi sento stressata, Alberto stai attenta anche tu perché secondo me ci aiuta, inspiro ed espiro profondamente, batto le mani con il palmo ben aperto e dico oh oh ah ah ah, concludo con una fragorosa risata che da stimolata diventa rapidamente autentica e mi fa sentire di nuovo bene e ricaricata. Funziona come un esercizio di meditazione ed è molto facile da praticare. È lo yoga della risata. Quindi in questo messaggio di Bruna abbiamo due indicazioni. Alberto. Sì, meditazione. Meditazione. Io posso dire che credo che poi il segreto sia questo, cioè quando siamo sotto stress noi siamo in balia di un evento esterno che ci tiene in scacco e che ci tiene in pugno. Utilizzare questi rituali significa in qualche modo avere la capacità dentro di noi di distrarci da qualcosa che è troppo uncinante, quindi in qualche modo dire a noi stessi: io ho una mia risorsa, una risorsa interna. E nel momento in cui lo facciamo, noi desintonizziamo tutte le nostre energie e anche le nostre risposte biochimiche da ciò che fuori di noi le vuole costantemente tenere attivate. È un po' come quando un bambino fa i capricci, che tu usi la tecnica della distrazione, cioè gli dici: ma guardala che cosa sta succedendo, e lui improvvisamente smette. Ecco, è quello un meccanismo switch on, switch off, direbbero gli inglesi, accendi e spegni. Beh, come si dice? switch on, switch off. Che sembra un po' anche un po' cinese. 800240024. Dobbiamo scrivere oggi insieme una serie di rimedi per gestire lo stress, ma soprattutto per potenziare l'eustress, quello buono, quello che ci fa vivere bene, affrontare la vita con energia, entusiasmo, accettare le sfide. Noi così dobbiamo essere. Salvatore, do la parola a Tommaso che ci chiama da Cuneo, perché voglio scrivere proprio subito in diretta, magari ha da suggerirci una buona ricetta antistress. Tommaso, buongiorno. Buongiorno a lei. Direi che la mia è una continuità a quello che avete detto. Io ho 63 anni e ho sempre adottato questa tecnica. Ogni giorno di dedicare almeno da mezz'ora, tre quarti d'ora, sempre solo a me stesso, dimenticando tutto il resto, qualsiasi problema grave potessi avere. Quindi staccare la mente. Una volta poteva essere la passeggiata col cane, una volta la birra, una volta il mio tè, una volta la lettura, cioè proprio obbligarmi a staccare dei problemi quotidiani, di modo che, prima avete parlato di sonno, di altre cose, che è un aiuto che non è forzato, però è forzoso per quanto riguarda la mia mente a liberare un po' dei problemi. Io ho adottato questo e avendone 63 ha funzionato. Ha funzionato, Tommaso, e allora io qua ho un foglio bianco e già scrivo subito l'ingrediente per vivere bene, per contrastare lo stress cattivo di Tommaso: dedicare mezz'ora a se stessi ogni giorno. Alberto, questa è una buona indicazione, non è egoismo, no, vero? Assolutamente, cioè è salute, è presidiare il proprio benessere. Andiamo a Silvano da Pesaro, buongiorno. Buongiorno, eccoci. Sì, niente, per vincere il mio stress la mia ricetta è di camminare quasi un'ora al giorno in aperta campagna da solo, così mi libero un po' la mente e lo stress. E quando i pensieri arrivano e battono, proprio perché ci sono dei pensieri che non ci lasciano, provare a cercare di eliminarli, sì, di farli uscire da noi. Farli uscire da noi, cioè svagarsi dalla routine quotidiana. Grazie a Silvano per la sua indicazione. Salvatore, ti hanno fatte sentire un paio, ma ci sono tanti ascoltatori che ci stanno chiamando e ci stanno scrivendo. Intanto anche tu potresti mettere questi rimedi suggeriti dagli ascoltatori di Essere Benessere sul sito Salute 24. Assolutamente, adesso dopo questa chiacchierata faremo un aggiornamento della pagina con i rimedi di Talbot, a cui metteremo insieme anche quelli che ci hanno appena suggerito. Poi noi alcuni li metteremo anche noi sulla nostra pagina, ma anche masticare un chewing gum, vero? Dice Talbot. Sì, c'è anche questa sembra che sia un segnale di stress, invece aiuta ad abbassare il livello di cortisolo. C'è una ricerca della Northumbria University inglese in cui dice che circa il 15-18% del cortisolo presente nel corpo tende ad andare via a seguito del continuo masticare della gomma. Quindi io devo dire che consiglio che può far bene. Ecco, io devo dire che quando incontro le persone che quando parlano masticano mi stressano. E l'unico punto su cui non sono tanto d'accordo con il grande Talbot, ma non importa, lui non lo saprà mai, io non glielo dico, voi non fate la spia. Salvatore, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a te, a presto. C'è una tecnica efficacissima per non farsi stressare, ci suggerisce Liliana: concentrarsi su Radio 24, chiunque può dire qualsiasi cosa, ma si va dritti. Il nostro dottor Oz, a proposito del cortisolo, diceva si accumula proprio nella pancia questo grasso, e tanto che lui si riconosce le persone stressate dal girovita. Però Alberto, non tutte le persone stressate sono panciute. Ci sono persone infatti che sentono lo stress ad altri livelli, magari con un'iperattività, sono magrette però sono sempre attive, hanno pensieri ricorrenti, oppure c'è chi avverte più una pressione allo stomaco, chi fa i conti con il mal di schiena, con quella tensione a livello cervicale, insomma a ciascuno la sua risposta. Sì, darei di nuovo un'immagine per spiegare un po' quello che succede, cioè che lo stress lo potete davvero considerare come il vapore che va accumulandosi dentro a una pentola a pressione. Abbiamo detto che in una certa quantità fa bene e quindi è proprio un vapore che permette la cottura. Ma quando la pressione comincia a salire, bisogna avere una valvola di sfogo. Allora, lo stressato che riesce a rimanere magro è probabilmente uno che utilizza la sua motricità, la sua mobilità, il suo fare attività fisica come modalità per scaricare l'energia stressante che ha accumulato. In questo senso fa tra l'altro un'operazione molto positiva per la sua salute. Lo stressato che ha un lavoro sedentario e che quindi è fortemente in balia di quello che gli succede, sta davanti a un computer, non riesce a fare attività fisica, chiaramente va tutto in accumulo, e cioè quella pentola a pressione in cui non c'è una valvola che permette di far uscire il vapore. A quel punto quello stress produce danni, quindi in parte diventa pancia, tessuto adiposo, in altri forte contrattura muscolare, qualcuno mal di testa ed emicrania e via dicendo. Quindi cerchiamoci delle valvoline di sfogo. Sì, proprio con... Giovanna l'ha trovato perché mi iscrive dopo 10 ore di negozio, ballo country, ricarica e scarica tensioni, soprattutto perché lasciamo i mariti a casa 3 volte alla settimana. 800 24 00 24, una puntata che sarà ricca, avremo tanti esperti, ci raggiungeranno per gestire anche quelle piccole botte di stress che possono capitare a tutti, anche quella alla persona che sa gestire bene la sua quotidianità. Ma intanto voglio sapere se Massimo da Caserta ci suggerisce un rimedio o ha bisogno di un aiuto? Buongiorno. Buongiorno. Io avrei bisogno di un aiuto in realtà, perché... Ma bene. Io soffro, ho il problema inverso, nel senso che pur lavorando 14-16 ore al giorno per 6 giorni alla settimana, a volte anche 7, in realtà mi stresso quando devo rilassarmi, cioè quando sto a casa senza impegni, divoro giornali, divoro il pranzo, divoro sigarette. L'unico modo per scaricare un pochettino questa, più che stress direi ansia, qualche volta gioco a scacchi da solo, ma voglio dire, mi stressa ancora di più perché poi alla fine sono sempre convinto di barare con me stesso, perché Massimo, senta, e quindi lei ha un problema inverso, dice Massimo. In realtà non è tanto un problema inverso, è diversa la modalità in cui insorge, ma Massimo... Ma Massimo ha usato anche proprio una parolina che effettivamente a volte è correlato. Al nostro psicoterapeuta ha attivato subito una lampadina. Cioè, ha detto mi viene l'ansia, e credo che un po' il problema di Massimo sia che quello che diventa tempo libero per lui si trasforma invece in tempo vuoto, e il vuoto sembra sollecitare in lui un disagio che deve necessariamente essere coperto, colmato. Quindi non lo so, farei magari una cosa un po' più approfondita, cercherei di vedere il mio tempo libero non che rischio è per me, ma che possibilità infinita è per me. E per scoprirlo forse bisogna anche tollerare un po' la frustrazione di percepire il disagio che nel tempo libero si può anche stare senza fare nulla, perché per entrare in contatto con la parte più profonda di sé bisogna darle il tempo per emergere. Si può iniziare però dalle piccole cose, come suggerivano i nostri ascoltatori di prima. Riprendo proprio l'immagine del nostro ascoltatore che ha detto una camminata in campagna. Se uno vive in città non importa, può farsela in città. Può andare in un parco, ma guardate proprio di nuovo un'immagine. Lo stress è qualcosa che vi si chiude addosso, vi dà un senso di soffoco e voi non riuscite a gestire. Che cosa ci faceva vedere in quella passeggiata in campagna? Che abbiamo bisogno di avere proprio spazi enormi, pochissime stimolazioni, perché quello è probabilmente il prerequisito per ricostruire una condizione di equilibrio fra dentro e fuori, che è quello che manca nello stressato. Andiamo ad Antonio, ci chiama da una città magnifica, Lecce. Buongiorno Antonio. Buongiorno a voi e grazie per l'apprezzamento per la mia città. È bellissima. D'accordo su tutti i consigli, musica, passeggiate e quant'altro. Io per necessità mi sono trovato ad applicare un altro sistema che alle volte funziona. Sono pronta a scriverlo. Dice il cinese: se un problema lo puoi risolvere, perché ti preoccupi? Se lo stesso problema non lo puoi risolvere, perché ti preoccupi? Riassumo: preso atto, cognizione, coscienza di un problema che ci dà preoccupazione, stress, eccetera, bisogna mettersi in una condizione mentale per non essere sopraffatti dall'incubo del problema stesso. I casi sono due: o è risolvibile, quindi non merita angustiarsi. Non dipende da noi la soluzione di quel problema, non merita allo stesso modo angustiarsi. Cosa ne pensate? Cosa ne pensa lo psicoterapeuta? Grazie Antonio per questo consiglio cinese che devo dire contiene una grande verità e lascia Alberto Pellai, strano a dirsi, senza parole. Beh, Antonio ci ha fornito la quintessenza dello Zen, perché alla fine il vero rimedio allo stress è sentire che noi siamo solo una parte, uno strumento della soluzione dei nostri problemi. Possiamo imparare a gestirli, ma non siamo onnipotenti. Partendo da lì, lo stress diventa un'inezia. 800 24 00 24. Torniamo subito dopo i mercati e il meteo. Essere e benessere. Rimedi per uscire da quella sgradevole situazione che avvertiamo quando lo stress ci mette sotto pressione. Noi oggi vogliamo coltivare l'eustress, lo stress buono. Lo facciamo partendo dai vostri consigli. Ciascuno ha una propria teoria, una propria valvola di sfogo. Scrivetecela al 349-238-6666. Chiamateci all'800 24 00 24. Oggi sceglieremo il consiglio antistress migliore tra gli ascoltatori che chiamano e quelli che scrivono per dare il nostro consiglio di lettura di oggi, che è sconfiggere lo stress in 5 minuti grazie alla collaborazione con IBS. Senza stress scatenatevi, 800 24 00 24 349 238 6666. A volte può succedere che siamo assolutamente equilibrati, lo stress non ci tocca, ma all'improvviso un appuntamento importante, una notizia inaspettata, un ritardo, qualcosa che va storto, e lo stress ci assale. Allora calma, usiamo le mani. Per mani intendo usiamo la digitopressione, e in linea con noi abbiamo il professor Ottavio Iommelli. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Direttore della struttura dipartimentale di medicina non convenzionale all'ospedale San Paolo di Napoli. Professore, allora io ho suggerito la digitopressione, facciamo un SOS, un rimedio per tenere lo stress sotto controllo quando per una qualunque cosa esterna anche a noi qualche cosa insomma ci agita, rischia di farci andare in tilt. Non risolviamo certo la situazione, ma qualcosa si può fare. Possiamo un po' provare a ridurre tutta la sintomatologia che lo stress può manifestare, come ansia, tensione, eccetera. Ci sono dei punti, vero professore? Proviamo a individuarli in un viaggio che va dalla testa ai piedi. In effetti in questo caso ci dà una mano la medicina tradizionale cinese, in particolare appunto la digitopressione, che proviene da un vecchio massaggio cinese che è il Duina. Partendo dalla testa noi possiamo in effetti stimolare con le dita un punto particolare a livello dell'orecchio, il punto si chiama Shenmen, il punto preciso anatomico si trova nella fossetta triangolare, cioè in effetti è un punto che si trova all'apice dell'orecchio, nella parte alta dell'orecchio, nella parte piatta. Sì. Allora noi prendiamo questa parte con l'indice e il pollice e proviamo a massaggiare delicatamente per circa 10 minuti, lo possiamo fare a entrambe le orecchie. Poi scendendo, quindi chi ha le orecchie a sventre o le orecchie grandi è più fortunato. Ecco, gli stressati hanno la pancia, ma se hanno orecchie grandi, insomma. Esatto, okay. Si dice che campa anche più a lungo, in effetti. Vede, allora intanto io sono qua che mi massaggio l'orecchio, ma lei mi sta già portando ad un altro punto. Sì, In effetti un altro punto importante che controlla un po', diciamo, in medicina cinese lo psichismo del soggetto, della persona, si trova vicino al polso e precisamente seguendo il lato esterno del mignolino, sì, dopo la mano, a livello del polso, lateralmente, c'è, sì, una leggera depressione. Sì, io sento una fossetta, un avvallamento. Una fossetta, si vede, si tocca tranquillamente. Sì. E in effetti anche questo punto è importante e converrebbe massaggiarlo appunto quando abbiamo questa sensazione e siamo sottoposti a uno stress, quindi tende anche a calmarci. E poi un altro punto importante che sono sintomatologici, diciamo, danno una risposta a livello sintomatico, possiamo trovarlo vicino al piede. In effetti anche qui c'è una depressione tra l'alluce e il secondo dito del piede, circa 2 centimetri sopra l'incisura tra le due dita, sì, tra alluce e secondo dito, e anche qui, anche se un po' più lontano, sarebbe l'ideale farselo massaggiare, ma possiamo anche massaggiarlo tra da noi. Insomma, ci si attrezza, ecco, in qualche modo, se non troviamo qualcuno che ci massaggia il piede, nell'attesa di trovarlo, facciamo da noi. Chiaramente con una leggera pressione si stimolano questi punti e in effetti si tende a rilassare il soggetto, spesso mettendo degli aghetti anche in questi punti. Dopo 10 minuti troviamo il paziente completamente rilassato e addirittura a volte addormentato, quindi producono quello il massimo. Endorfine. A proposito del pisolino, perché si attivano proprio le endorfine, che sono le amiche del nostro buon umore, del nostro relax, del farci stare bene. Perfetto, perfetto. Questo è anche stato visto scientificamente, appunto, che la stimolazione dei punti di agopuntura porta a un rilascio di endorfine. Fantastico. E quindi di benessere. Di che fortunata che è sua moglie, professore. Perché sì, lei, io meno, perché mi massaggia raramente. Senta, professore, lei è anche direttore didattico del master di secondo livello di integrazione tra la medicina tradizionale cinese e si occupa anche di fitoterapia. Tante volte noi diciamo lo stress ci avvelena ed è un modo di dire che però insomma ci prende, possiamo dire così, perché sì, si è visto che quando lo stress da acuto diventa o tende a diventare cronico, si mette in atto una serie di modifiche all'interno del nostro corpo, tra cui c'è un aumento dei radicali liberi. Per cui il consiglio della fitoterapia è cercare di liberarsi di queste tossine che gioco forza lo stress produce quando è a livelli alti. Sì, in effetti questa è una tecnica che già usavano i nostri genitori, no? con i classici clisteri, diciamo, che venivano fatti prima dell'estate in alcuni momenti dell'anno, cioè una pulizia in effetti intestinale. Meno male che hanno finito, perché appena il bambino andava, e mio papà mi racconta delle cose, appena andava al mare, purga, poi ritornava a casa, che vacanze terribili. Però si era più puliti dentro, in effetti. E in effetti ora, studiando, facendo ricerca eccetera, in effetti si consiglia di fare 3-4 volte l'anno, sì, un infuso di tipo drenante, appunto, di pulizia, di eliminazione dei radicali liberi con le piante. In effetti nel mondo fitoterapico, della fitoterapia, ci sono moltissime piante che agiscono su questi organi emuntoriali, cioè gli organi deposti per eliminare radicali. Che piante sono? Perché adesso abbiamo parlato anche della capacità del tè nero di ridurre, di tenere basso il cortisolo, un ormone che spesso è responsabile dello stress. Lei mi suggerisce altre piante, quindi, che possiamo alternare al tè nero. Mi dica i nomi, così me li scrivo. Allora, guardi, sono delle piante che agiscono a livello epatico e renale. Sì. Quelle più importanti sono la fumaria, la bardana, il tarassaco, il carciofo, una pianta che viene chiamata tè di Giava, che si chiama ortosifon, che è un potente diuretico, quindi sì, elimina, fa sgonfiare, ma principalmente è un antiossidante. Poi lo stress in effetti può creare una diversa sintomatologia, quindi se si manifesta con palpitazioni, quindi nevrastenie cardiache, sì, c'è una pianta importante che è il biancospino. Se invece si manifesta con colite, spasmi, allora possiamo utilizzare la melissa. Quindi, se è solo ansia, la passiflora, per esempio. Ma insomma, abbiamo tante erbe per il nostro benessere. No. Grazie, professore. Ci sentiamo presto, buona giornata. Grazie, buona giornata, grazie a tutti. E noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Vi ricordo, sconfiggere lo stress in 5 minuti, questo è il nostro consiglio di lettura. Arriverà a casa il primo ascoltatore che ci invierà il messaggio via sms al 349-238-6666 o in voce il rimedio antistress che oggi il nostro Alberto Pellai, medico ricercatore ma soprattutto psicoterapeuta, giudicherà vincente, tra virgolette. A tra poco. Essere e benessere. Eccoci qua, oggi ci liberiamo dallo stress cattivo, i vostri rimedi sono tanti, per me giardinaggio e bonsai, mi scrive un ascoltatore, un altro mi scrive quando sono molto stressato, una passeggiata nel bosco del buon sesso funziona. Invece Maria Cristina ha un rimedio preventivo, quando vivo o vedo qualcosa che mi gratifica cerco di imprimere la sensazione nella mente, tale sensazione la recupero quando ne sento il bisogno, magari non ricorderò le sfumature di un paesaggio, ma la sensazione di relax è tutta mia ed è sempre con me. Ennio da Roma, vediamo come se la cava. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Senta, io sembra strano, ma ho pensato che nel corso degli anni lo stress si accumula chiaramente mano a mano che passa la giornata, certo, mentre chi fa un lavoro come mio che giro sempre. Allora, quando arrivi la sera a casa, chiaramente, cioè, come fai a un attimo a rilassarti? Cioè, non lo ci dici sono, a me, né, certo. Non ci sono né, diciamo, né tempo per fare ginnastica e né per praticamente attività fisica in genere. Mm. Insomma, alla fine sembra strano, ma ho cominciato a lavare i piatti. E praticamente devo dire che cioè il gesto, cioè l'azione, il fare questo tipo di attività dopo cena, sì, e quindi alla fine della giornata intera la rilassa. Mi crea un certo rilassamento. Senta, Ennio, lei è sì, sposato o è libero? Sono separato. È per cui al momento è libero. Sì. Ecco, vi do anche questa informazione, amiche. Ennio da Roma si rilassa lavando i piatti ed è libero. Ennio, grazie. Ci sono ascoltatori e ascoltatrici, soprattutto, che mi dicono: mi rilasso mentre cucino, mi rilasso a fare maglia. Evidentemente, Alberto, questi sono consigli, sono cose che il fare quando la testa è occupata in tanti pensieri, forse stacca quella famosa spina. Sì, intanto fa staccare la spina, poi era molto bello perché, come l'ha raccontato Ennio, cioè Ennio ha detto: sono sempre in giro tutto il giorno, cioè sto fuori e devo controllare quel fuori che mi viene incontro, certo, per cui il suo angolo di relax è: torno a casa nel mio nido e faccio un'azione che ho io completamente sotto controllo, e questo per lui è davvero staccare la spina. E ci ha detto che è anche libero. Angelo da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, allora, a lei. Io vi porto un momentino, spostiamo l'argomento. Sì, è sempre stress, ma visto in un'altra ottica. Io faccio il fornaio di professione. Sì. Comincio a correre di notte perché tutto il nostro lavoro si sviluppa la mattina entro mezzogiorno, o massimo la una. Mm. Però capita che quando vado in ferie, vado in determinati posti, esempio i Caraibi oppure Capoverde, e vedo la popolazione che ha molto meno rispetto a noi, sì, ma ha una cosa in più che noi abbiamo. Loro non hanno lo stress, nel senso che loro prendono la giornata come gli viene, campano molto meglio, perché noi corriamo. Per esempio, io adesso la soddisfazione che io ho, sa dove sono? In aperta campagna, fermo ad un passaggio livello. E parla con noi, ma questo è magnifico. Essere fermo a un passaggio livello dove ho campagna dietro, campagna davanti, sinistra e destra e sopra la superstrada che fa 3 minuti, io sarò su quella superstrada. Dopo di voi mi metto in quella superstrada a correre come un matto. No. Adesso invece sono Angelo, fermo. Vada piano anche nella superstrada, così, così ci sentiamo. Mi raccomando, Angelo. Grazie Angelo per essere intervenuto. Alberto? Ha raccontato proprio la causa dello stress della maggior parte di noi, cioè prestazionale, funziona come una bomba a orologeria, abbiamo una scadenza, una prestazione da fare entro la scadenza e questo può funzionare un giorno o due giorni, se è tutta la vita sotto scadenza chiaramente lo stress ci invade e ci pervade e noi ne siamo in balia. Molti ascoltatori mi stanno scrivendo, mi hanno scritto che praticano yoga o discipline orientale, tai chi chuan, qigong e che diventano veri e propri attivatori di benessere fisico e mentale. La ricerca proprio ha voluto mostrare e verificare anche il potere terapeutico di queste discipline. Soprattutto viene molto consigliato e studiato lo yoga proprio come attivatore di benessere. E in linea con noi abbiamo Silvia Salvarani, maestra di yoga da oltre 30 anni, ha pubblicato diversi libri, tra cui ne cito alcuni: Yoga per un anno, edito da Tecniche Nuove, ed Empower Yoga da Macro Edizioni. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Che bella voce da maestra yoga, come mi ha detto buongiorno. Grazie. Senta, quando noi ci accorgiamo che tutto intorno a noi o anche soprattutto dentro di noi corre veloce, è arrivato il momento di decelerare, rallentare il ritmo, che molto spesso equivale anche a ritrovare il respiro, allentare quella morsa che molti di noi avvertono proprio quando lo stress sale. Certo. Ma infatti credo che la maggior parte delle persone che si rivolgono a queste discipline, in particolare lo yoga, hanno capito che lì c'è un po' il deposito del segreto della salute in senso lato. Quindi lo yoga è uno strumento straordinario a beneficio di tutta l'umanità, anche se nato in India ormai è diventato patrimonio veramente dell'umanità e tutti ne possono beneficiare, proprio perché lo yoga ci riporta a un ritmo naturale. Quelli che noi chiamiamo i bioritmi sono dei ritmi che esistono, non possiamo far finta che non esistano, perché noi diciamo ci siamo adattati a dei ritmi più veloci, ma non sono dei ritmi naturali. Bisogna andare più slow. Lo yoga è la più antica indagine che l'uomo abbia mai svolto sul corpo e sulla mente. Carl Gustav Jung. E mi pare che Jung l'ha fatto sentire questa frase perché abbia colto il potere dello yoga, insomma una disciplina che ci aiuta a ritrovare il benessere nel corpo e nella mente, due unità che spesso lo stress ci fa vivere come separate, ma che invece sono tutt'uno. Per arrivare a questo, per ritrovare l'equilibrio, però bisogna scegliere delle strade, bisogna anche scegliere il tipo di yoga che fa per noi, signora Salvarani, perché ne abbiamo tante proposte, ma lei ci deve aiutare ad avere un'indicazione. Certamente, la prima indicazione che posso suggerire è di capire di che cosa abbiamo bisogno. Ci sono persone oggi che diciamo vivono lo stress, cioè si manifesta in loro lo stress sotto forma anche di stati di depressione, ansiogeni o piuttosto di scarico energetico. Quindi sono quelle persone che per stress non hanno voglia di fare, tutto diventa faticoso, apatiche. Diventa tutto faticoso, non e hanno a queste più chi proponiamo? A che cosa proponiamo? Uno yoga dinamico perché naturalmente questo ti dà un'energia in più. cioè ti riattiva l'energia, sì, che diciamo è stata offuscata da tutto questo stress. Invece, per contrario, per le persone che sono super attivate dallo stress, sono sempre in movimento, il consiglio è quello di preferire lo yoga tradizionale, mentre lei, quindi l'hatha yoga. Abbiamo 10 secondi, lei ha ideato un nuovo metodo, come si chiama? Empower Yoga, proprio perché è un metodo che ho messo a punto in 15 anni di lavoro ed è un metodo che proprio dà dei benefici anche immediati. Ne parleremo, perché attiva anche il buon umore. Sulla pagina di Facebook metteremo l'SMS, il messaggio scelto da Alberto Pellai, che al momento è un po' ancora al lavoro. Intanto io vi aspetto domani. Grazie Alberto, grazie a voi e a Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica.